16-17 euro. Quindi stiamo parlando per esempio di un viaggio da Milano a Firenze che viene a costare appunto 13-14 euro, quindi anche per un passeggero chiaramente il risparmio di costi è particolarmente importante anche nei confronti di altre alternative di trasporto. Chi sono i vostri utenti? Abbiamo una varietà di utenti che vanno sia dagli studenti fino a persone anche oltre i 60-70 anni senza particolari difficoltà. E il 21% sono studenti, mentre il 71% sono lavoratori attivi. Quindi in realtà ci rivolgiamo a una platea piuttosto ampia, l'età media appunto di 31 anni, quindi diciamo che non abbiamo un target molto ben definito, ma è un servizio che si rivolge più o meno a tutti coloro che devono viaggiare tra due città. Avete dei numeri di crescita veramente impressionanti, evidentemente insomma puntate a molto lontano. Tra l'altro nei giorni scorsi avete portato a termine acquisizioni importanti che consolidano la rete a livello europeo. Questo dimostra tra l'altro come il trasporto condiviso e collaborativo non sia più solo, come dire, un esperimento, così come si pensava quando è nato, ma ormai una realtà consolidata. Sì, assolutamente, non ci stiamo più rivolgendo agli early adopter, ci stiamo ormai rivolgendo alla massa. In Italia particolarmente l'Italia è stato un paese che ha particolarmente preso a cuore questa pratica, un po' perché gli italiani si sa che non hanno problemi a scambiare qualche chiacchiera in più e a conoscere nuove persone, ma proprio appunto per la realtà stessa dell'elevato costo di viaggio. Quindi l'Italia è stato particolarmente apprezzato, ma abbiamo visto tassi di crescita molto forti praticamente in tutti i paesi in cui abbiamo lanciato il servizio. Recentemente appunto abbiamo anche avuto modo di inserire un'altra grande azienda del settore all'interno del nostro network, quindi sempre più utenti, sempre più paesi, e speriamo un giorno di avere un'esperienza di ride sharing estesa un po' a tutto il mondo, quindi che si possa viaggiare da Roma a Milano come si viaggia tra qualsiasi altra coppia di città nel mondo. Che cosa possono insegnare le realtà di riferimento della sharing economy che noi di puntata in puntata stiamo raccontando? Che cosa raccontano della trasformazione del modo di vivere e di consumare dei cittadini? Beh, il fattore fondamentale che noi stiamo vivendo anche sulla nostra esperienza è il fatto che in realtà c'è un potenziale di fiducia incredibile in questo tipo di piattaforme. Quindi che si stia parlando di un viaggio in auto o di qualsiasi altro tipo di esperienza di sharing, stiamo parlando di due persone che si mettono d'accordo, lo fanno attraverso un sito, un'applicazione, e lo fanno appunto sulla base di una fiducia che viene sbloccata dalla presenza di alcuni sistemi che possono essere i feedback o altri sistemi simili. Quindi in realtà la fiducia tra le persone esiste ancora, esiste anche nel 2015, c'è soltanto la necessità di andare a sbloccarla appunto e di costruire e di andare a sfruttare quel potenziale che appunto altrimenti finora non era stato sfruttato. It's always more fun to share with everyone. Ma perché preferire questa tipologia di viaggio al treno, per esempio, e con quali vantaggi? Lo abbiamo chiesto ad una delle utenti, Viviana. A 36 anni viaggia principalmente tra Milano e Torino. Normalmente io viaggio come passeggero. Io viaggiavo sulla Torino-Milano come tratta e avevo il fidanzato a Milano. E quindi ero una pendolare dell'amore. Facevo questo viaggio una volta ogni due settimane, più o meno, nei weekend. E devo dire che l'ho scoperto un po' come alternativa al treno, soprattutto in momenti di sciopero, ad esempio, oppure come alternativa rispetto ad orari che per me non erano comodi. E devo ammettere che nel momento in cui l'ho scoperta mi ci sono affezionata, perché l'ho trovato molto più vantaggioso rispetto ai sistemi tradizionali, un po' perché sicuramente c'è un risparmio a livello economico, perché mi consente di risparmiare più o meno il 30% rispetto a un biglietto del treno. E poi c'è un vantaggio in termini di tragitto proprio, molto spesso riuscivo a trovare dei passaggi più comodi a livello di punto di ritrovo o di punto di destinazione e arrivavo anche in minor tempo. E poi un altro elemento importante per me è il fattore bla bla, quindi proprio la chiacchiera con gli altri compagni di viaggio. Yeah. journée, j'ai fait du kebab, salade, tomate, oui c'est mon tas. Cambiamo argomento, ebbene sì, è il kebab, il cibo etnico più influente in Italia, primeggia sull'hamburger e persino sul sushi. Lo rivela la ricerca realizzata da Ipsos per Tutto Food 2015, il salone agroalimentare divenuto ormai la prima fiera del settore in Italia, la terza più grande d'Europa, aprirà i battenti dal 3 al 6 maggio prossimi in concomitanza con la prima settimana di apertura di Expo 2015. Dall'alimentazione ormai lo sappiamo passano molte delle nuove tendenze di consumo, ci spiega il focus della ricerca il presidente di Ipsos, Nando Pagnoncelli. È riuscire a individuare quali sono i comportamenti che guidano le scelte dei consumatori italiani, in particolare abbiamo voluto focalizzarlo su due segmenti sociali importanti, quelli che vengono chiamati millennials, quindi i giovani d'oggi, che vivono un contesto molto diverso rispetto a quello dell'altro segmento, che è quello dei baby boomers, quindi i 50-60enni per intendersi di oggi. Le aree di sovrapposizione riguardano sostanzialmente quello della gratificazione emotiva, no? Nel momento in cui si parla di cibo, e questa gratificazione emotiva è davvero centrale e non è così scontata, proprio perché molto spesso si immagina che dopo la crisi gli atteggiamenti prevalenti anche nei confronti dei consumi alimentari siano quelli improntati, come dire, al risparmio, qualcuno dice addirittura al pauperismo. Non è così, c'è una forte ricerca di qualità e c'è una ricerca di un equilibrio tra gli aspetti più salutistici senza rinunciare però al piacere della cucina. Un aspetto che mi pare particolarmente interessante è questa, come dire, dicotomia tra il preparare in casa, quindi la riscoperta della cucina, e l'andare fuori casa. Ecco, sono atteggiamenti molto meno, come dire, polarizzanti rispetto al passato, anche se c'è una differenza per età, quindi i millennials sono molto più propensi a uscire, quindi andare a mangiare fuori casa, però è interessante perché non sono solo le come dire, motivazioni legate alla socialità delle persone, ma anche alla ricerca di gusti nuovi, e forse questo elemento è un elemento che li differenzia un po' di più rispetto alle generazioni precedenti, e quindi queste ibridazioni di cucine che portano a immaginare che, o a dire che il prodotto più, come dire, utilizzato in Italia delle cucine straniere è appunto il kebab, no? Che prevale sull'hamburger e sul sushi, mentre invece quello che noi offriamo alle cucine del mondo, ovviamente qui un po' più stereotipato, è la pizza e la pasta. Però è interessante osservare che tra i giovani al terzo posto si colloca il caffè e il cappuccino, proprio perché forse girano di più il mondo e quindi si rendono conto che l'espresso è un prodotto investito di valori molto positivi negli altri paesi del mondo. Protagonista del fuori casa dunque, ma grande voglia di cucina domestica con gli amici, un fenomeno che abbiamo raccontato di recente, lo ricordavamo in apertura, con la moda degli home restaurant. Che cosa ne pensa uno chef stellato come Carlo Cracco? Lo abbiamo incontrato in occasione della presentazione di Tutto Food, appunto, glielo abbiamo chiesto. Una cosa normale, voglio dire, il cibo diventa l'occasione per fare tutto, sia per inventare nuovi lavori, come in questo caso, o anche per valorizzare magari alcune case vuote. Per cui va bene, l'importante è sì sfruttare le occasioni, ma anche in maniera positiva, perciò ricordandosi sempre che non bisogna vedere e cercare di mangiare il pezzettino di carne oggi e rimanere con l'osso domani, ma cercare di far sì che questa carne ci sia sempre, per cui costruendo qualcosa, non solamente sfruttando. Tra pochi giorni l'avvio di Expo, che tipo di occasione per l'Italia? Expo per me è un momento bellissimo, credo che sia un'occasione unica, 150 paesi, 60 padiglioni diversi con un sacco di ingredienti e materie prime uniche, è un come un Luna Park nuovo e diverso attorno al cibo, per cui dobbiamo cercare di scoprirlo bene, perché è un'occasione unica, e di valorizzarlo, e soprattutto poi con la carta di Milano cercare di rafforzare quei concetti di base legati al cibo che sono fondamentali.